solo ripenso a come ero, se solo ripenso a dove ero, solo con il mio bagaglio come un forestiero, col veleno in ogni taglio niente come siero. Vaffanculo, ho perso il passo a quel sentiero, perché hanno preso tutti, ho scelto quello dei problemi brutti, da cui si esce distrutti però col pensiero che gli ultimi saranno i primi, forse è vero. Su ogni palco figlio di puttana c'ero, parto il fuoco come un abanero, con la canna cielo, scrivo testi come versi dal Vangelo, la fine del mondo come l'Armageddon, l'arrivo del Papa Nero. Provo ad evolvere sta merda, da quando c'ho 16 anni, ho la vena artistica appena aperta, e l'ultima mano l'ho appena persa. Dai fammi fuori, dai fammi fuori, fammi fuori, c'è differenza tra me e te, tu stanne fuori, stanne fuori, tanto non cambio idea fra te. Nella vita io so fare questo, e non puoi dire niente sul fatto che ci riesco, io ci riesco. Tu stanne fuori, stanne fuori, c'è differenza tra me e te. Fra te, se solo ripenso a come ero, anni fa sempre in fissa davanti allo stereo, per le rime sono sotto manco fosse ero, quattro righe sul cruscotto ti resale il gelo, tutti fingono un vecchio trucco, vieni te lo svelo, ognuno è vero finché non ti servono gli euro. Uccidi il rap o ti scappa, ribalta l'impero, incidi rap se non spacca riparti da zero. Frate, faccio sul serio dai tempi di dove sei, il primo demo 1996, in studio bevo fumo e rendo il triplo 6, nemico numero 1 lancio bombe Hussein. Il peso cala, sono sempre in allenamento, ho preso casa, penso sempre all'arredamento. Ti piace questo abbinamento? Sì, bei colori, ascolto il mio stipendio, sembra dirmi fammi fuori. Dai fammi fuori, fammi fuori, c'è differenza tra me e te, tu stanne fuori, stanne fuori, tanto non cambio idea fra te. Nella vita io so fare questo, e non puoi dire niente sul fatto che ci riesco, io ci